Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovata Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora Ivana, chiudiamo l'anno con i buoni propositi per il 2018, lo facciamo con il mental coach Luca Borrecca, benvenuto. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. Allora Luca, cosa vuol dire essere mental coach? Mental coach vuol dire essere un facilitatore, una persona che ti aiuta, diciamo, a definire in maniera un po' più pratica gli obiettivi dal punto di vista sportivo. Yeah. E ti aiuta in un processo appunto di raggiungimento di una performance ottimale. Ok, quindi non sei un coach alla Fabio Vedana, insomma, che prepari gli atleti dal punto di vista mentale, diciamo. Esatto, mentale. Alleno il muscolo mentale. Okay. Ma Luca, che cos'è il coaching? Spiegaci meglio. Allora, il coaching possiamo definirla come una relazione, un processo nel quale vengono individuate le capacità, le competenze di una persona e attraverso queste si prova e si cerca assieme ad arrivare alla definizione di obiettivi, si prova a realizzare assieme un piano d'azione, la definizione del potenziale della persona che ci si trova davanti e chiaramente tutto questo passando poi attraverso quelli che possono essere gli ostacoli, quindi la rimozione degli ostacoli, l'individuazione di facilitatori che ti possono aiutare a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato e quindi diciamo è una relazione di alleanza tra il coach è quello che viene chiamato il coachee, ovvero la persona che si fa riferimento al coach. Come dobbiamo affrontare invece quando pensiamo al nostro ascoltatore? Adesso noi abbiamo un programma di allenamento verso la maratona di Milano e Roma del prossimo 8 aprile. Ci può essere utile, insomma, fissare una sorta di tabella di marcia anche mentale in vista per la motivazione, insomma, in vista del nostro obiettivo. Come ci dobbiamo comportare quando ci prefissiamo un obiettivo tipo quello della maratona? Allora, tu hai detto benissimo, primo punto è proprio quello di fissarsi un obiettivo, perché riuscire a fissare un obiettivo permette poi di concentrarsi su quello che è il processo per il raggiungimento dell'obiettivo. Se tu pensi al raggiungimento di un obiettivo come la base di una piramide, ti posso dire che all'ingresso della piramide c'è il sogno, quindi del sogno però noi possiamo, diciamo, controllare solamente il 15% del sogno, ok? Se sotto il sogno abbiamo la prestazione e il risultato, anche questi possono essere controllati in maniera più o meno specifica, però hanno sempre delle discriminanti che non riguardano mai completamente noi. Mentre appunto definendo bene un obiettivo e concentrandoci sul processo, non riusciamo ad arrivare a controllare anche il 100% di questo processo. Quindi è importantissimo avere un obiettivo. E l'obiettivo deve essere, diciamo, raggiungibile in qualche realtà. Esatto, sì. Nel coaching, sfidante, diciamo, sfidante nello stesso tempo, però raggiungibile. Esatto. Viene usato proprio un acronimo che è quello di SMART, che si identifica in questa maniera. La S sta per specifico, quindi essere il più specifici possibile nella definizione del proprio obiettivo. Misurabile, quindi per quanto riguarda la maratona, magari darsi un tempo, no? da poter raggiungere. Attuabile, cioè che sia veramente attuabile con quelle che sono le tue capacità. Okay. Realistico, che appunto fa il palio con attuabile, poi temporizzato, cioè darsi un tempo, perché sennò rimane sempre qualcosa di diciamo un po' aleatorio, no? Che vogliamo fare ma poi non riusciamo mai veramente a mettere in pratica. Oltre a questo acronimo io aggiungerei anche tre parametri, come diceva Ivana prima: sfidante, perché chiaramente deve esserci anche quella componente lì, no? Che è molto motivante. Se presuppone l'intervento di altre persone o comunque l'accordo di altre persone, come ad esempio la famiglia, che ci sia un accordo appunto alla famiglia, perché comunque gli allenamenti portano via del tempo, e poi naturalmente da sportivo e da sportivo che ama lo sport pulito, dico anche etico, proprio dal punto di vista diciamo della prestazione, quindi cercando di rispettare l'etica dello sport giusto e pulito. Okay, quindi diciamo non doping, esatto. Quindi fissando un obiettivo è essenziale, perché così la motivazione, che poi è il motore ovviamente dell'azione, sia sempre più forte, più grande, insomma, no? Cioè più hai motivazione e più l'obiettivo ti sembra anche raggiungibile. Esatto. Quello che io consiglio quando con le persone con cui faccio coaching è proprio quello di scriversi l'obiettivo e averlo sempre davanti, in ufficio, a casa, in modo da poterlo proprio focalizzare in ogni momento e viverlo. Cioè io quando una persona mi parla di un obiettivo io voglio emozionarmi, quindi se riesco ad emozionarmi, so che questa persona farà di tutto per raggiungerlo, quell'obiettivo. Ok, tutto questo vale anche per la vita di tutti i giorni, assolutamente, non solo per un punto di vista sportivo. Assolutamente, no? Diciamo che il mental coach poi agisce sullo sportivo, ma poi lo sportivo è una persona tutti i giorni, quindi lo sportivo è sportivo per chi lo fa non di mestiere, lo fa 2 ore al giorno, ma poi le altre 22 ore risulta essere una persona con i suoi problemi a casa, il lavoro, la famiglia e quant'altro. Quindi tutto quello che viene poi applicato dal punto di vista sportivo e sullo sport chiaramente può essere trasmutato e replicato nella vita quotidiana di ogni giorno. La corsa ci serve un po' anche nella vita di tutti i giorni alla fine, no? Cioè l'esperienza che facciamo nella motivazione che troviamo nell'affrontare le nostre sfide sportive, alla fine poi in qualche modo ce la riportiamo nella nostra vita quotidiana. Assolutamente sì. E tu dicevi di tenerlo scritto, no? Il nostro obiettivo. Secondo te funziona anche avere il piano d'azione sotto mano e quindi capire, immagino che si debba agire anche per micro obiettivi, no? Cioè ogni giorno faccio qualcosa per raggiungere certo, assolutamente. Quando parlavo appunto di processo e di visualizzazione del processo, intendevo proprio quello, cioè darsi dei micro obiettivi che siano giornalieri, che siano settimanali, per poi appunto arrivare all'obiettivo finale. Ma è fondamentale per riuscire a mantenere la giusta motivazione lungo tutto il periodo della preparazione. E come facciamo a mantenere questa motivazione? Perché magari ci troviamo di fronte a alcune difficoltà che ci fanno magari ripensare al nostro obiettivo stesso, no? Allora, chiaramente bisogna pensare che durante la preparazione dei momenti di difficoltà ci sono, no? Dal punto di vista della forma fisica, della condizione fisica, dal punto di vista chiaramente degli impegni personali. Quando mi si fa questa domanda, io dico sempre che è giusto calibrare la propria preparazione, il proprio obiettivo in base a quelle che sono diciamo poi gli impegni e la nostra quotidianità. E quindi darsi del tempo, ok? Chiaramente non tutto può essere ottenuto immediatamente, darsi dei micro obiettivi, come diceva prima Ivana, è molto importante. Riuscirsi a focalizzare anche nei momenti più di difficoltà verso l'obiettivo è un altro elemento molto importante. Poi appunto cercare di creare attorno a sé quello che è il clima ideale per poter fare la cosa o raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissato. È importante anche, secondo me, almeno a me succede, visualizzare molto bene, no, l'obiettivo, questo sogno con una scadenza, no, che mi piace chiamarlo, quindi averlo bene in mente e immaginare proprio anche il profumo, no, di quello che posso provare, okay, durante il raggiungimento. Assolutamente, prima infatti parlavo delle emozioni. Quando qualcuno mi racconta il suo obiettivo, io voglio provare emozioni, e quando lui lo racconta e quando parlo anche di specificità proprio dell'obiettivo, intendo proprio questo, cioè riuscire ad immaginarselo e riuscire a immaginare quel momento là sotto il traguardo, ma tutto quello che poi ci porta sotto il traguardo, banalmente il terreno sotto i piedi, l'allenamento fatto sotto la pioggia, l'allenamento fatto sotto la neve, e gli odori che si provano durante l'allenamento. A me succede quando, ad esempio, durante l'Ironman, la fine dell'Ironman, gli ultimi 10 chilometri, io rivivo 10 chilometri della fine dei miei allenamenti. E rivivo quelle sensazioni provate lungo il naviglio, anche se sono a Francoforte o se sono dall'altra parte del mondo. Quindi assolutamente la visualizzazione è importantissima, e riuscire a ricollegare la mente a degli episodi vissuti in maniera piacevole, anche facendo fatica come durante gli allenamenti, per raggiungere il proprio obiettivo è fondamentale. A me succede visualizzare l'ultimo pezzo, diciamo, dei miei allenamenti per aiutarmi ad arrivare in fondo, per cui assolutamente sì. In realtà sì. Mi metto in difficoltà molte volte, perché la parte dell'allenamento, la finale, è sempre la parte più dura. Quando arrivo in fondo alla maratona dico: questi sono gli ultimi 2 chilometri del naviglio. In realtà poi mi metto un po' in difficoltà. Non mi però aiuta. Riesce a visualizzare la strada, sì, il cammino, sì, sì, dell'arrivo, quindi funziona davvero così. Luca, tu parlavi di Ironman, parlavi, esatto, prima del fatto che vorrei andare al mondiale, ti stai preparando quindi anche a questa sfida, cioè nel senso tu sei mental coach di te stesso alla fine. Sì, esatto, esatto, assolutamente sì. Quest'anno come obiettivo ho quello di riuscire a prendere la qualificazione per il mondiale del mezzo Ironman del 70.3, e sì, e su di me faccio un gran lavoro, anche perché io non nasco proprio amante della fatica, quindi... però lo sono diventato nel corso degli anni, quindi... Hai scelto uno sport, insomma, ideale, no? Ah, per beh, chi... certo, esatto. Poco faticoso. Esatto. Grazie a Luca Borreca e buon anno. Grazie a voi e buon anno a tutti. Ciao. Ciao. Verso la maratona. Quarto appuntamento per il nostro progetto Maratona, grazie ai consigli e al piano di allenamento del coach Fabio Vedana, bentornato. Ciao a tutti. E bentornata anche la nostra nutrizionista Francesca De Riu. Ciao a tutti. Allora Fabio, siamo in chiusura della parte di allenamento che abbiamo definito di adattamento, cosa ci attende la prossima settimana? Un regalo. Belli regali. Sono belli i regali anche perché siamo ormai ai propositi dell'anno nuovo e quindi bisogna... Quando si inizia un anno bisogna fare qualcosa di diverso. E quindi il regalo è proprio quello di darci nell'allenamento della fine settimana, che è quello più lungo, quello dove ci siamo presi più tempo, ci facciamo un regalo e prendiamo ancora più tempo. Quindi l'idea è proprio quella di prenderci almeno 2 ore, se non anche 2 ore e mezza, in cui facciamo proprio un'esperienza lunga. E l'esperienza lunga non deve essere esclusivamente di sola corsa, ma proprio lo chiamerei come il challenge di un trail. Per chi è vicino alla montagna o abita in campagna, lo può fare proprio come un vero trail, e quindi usando tanta strada fuori dalla strada tradizionale, no? E mentre chi è a Milano si può inventare qualcosa a Milano o in città, può inventarsi qualcosa. Per esempio, noi abbiamo la bellissima montagna di San Siro o comunque che è una zona verde dove possiamo fare quindi della corsa cammino fuori strada. Questo perché ci dà una serie di adattamenti sia metabolici ma anche muscolari, perché la corsa fuori strada ci permette degli adattamenti anche proprio accettivi riguardo la muscolatura. Quindi questo è il regalo per il fine settimana. Mentre nei nostri 2 allenamenti infrasettimanali, per quelli che vogliono stare sotto le 4 ore, faremo sempre 2 volte 60 minuti. Solidi, che ci danno proprio solidità nel computo di tutta la settimana, perché arriveremo a fare quasi 4-5 ore di attività nella settimana, sommando tutte i singoli allenamenti. Il ritmo è sempre quello lì di un respiro facile. Il ritmo è sempre facile. Okay. Io lo chiamo easy, cioè deve essere piacevole. Se comincio a far troppa fatica, devo inserire il cammino. Mentre per coloro che sono orientati a stare sopra le 4 ore come obiettivo, introduciamo un metodo nuovo, che è: faremo 5 volte 5 minuti di corsa, 1 minuto di cammino, a cui faremo seguire poi 20 minuti continui di corsa. Ah, ok. Questo per tutte e due le sedute infrasettimanali. E quelle 2 ore e mezza invece che dobbiamo dedicare per questo, diciamo, questo trail cittadino, trail in montagna, e quindi una corsa un po' più lunga, ricordiamo che insomma possiamo camminare comunque, no? Sì, cioè, ci dobbiamo godere il momento. L'obiettivo è farlo. Okay. Naturalmente è previsto che molti tratti, magari i tratti dove siamo fuori strada o i tratti dove inseriamo delle salite, possiamo prenderci il nostro tempo, la nostra intensità e quindi camminare. E abbiamo anche una domanda per la nostra Francesca De Riu, la nostra nutrizionista favolosa. Dimmi, Ivana. Allora, dunque, ci chiedono: io quando finisco di correre ho una fame pazzesca, cosa devo mangiare? Posso mangiare un tacchino, qualcosa di enorme? Dunque, secondo me la fame è come la sete, nel senso che non dovremmo mai avere così tanta fame, no? Quando corriamo non dovremmo avvertire la sete, ma dobbiamo prevenire la disidratazione, però dovremmo prevenire anche questi attacchi di fame, perché vuol dire che siamo in debito. Quindi se abbiamo tutta questa fame vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa prima del nostro allenamento, quindi non ci siamo alimentati nella maniera adeguata. Ovviamente questo dipende un po' anche dall'orario in cui ci alleniamo. Se facciamo un allenamento a digiuno, per esempio al mattino, è normale che magari dopo tutte quelle ore di digiuno e dopo aver fatto l'allenamento, al ritorno abbiamo tanta fame e quindi vogliamo fare una colazione ricca e completa, ed è esattamente quello che dobbiamo fare per recuperare. Ma se questo per esempio avviene nel pomeriggio, quindi pranziamo, facciamo passare le ore che ci servono per digerire, andiamo ad allenarci, poi torniamo, abbiamo tutta questa fame, secondo me abbiamo sbagliato qualcosa. Quindi il pranzo dovrà essere un pranzo completo e bilanciato, un primo, un secondo, una verdura, una frutta, ed eventualmente se passano tante ore, quindi più di 3, dobbiamo prendere qualcosa prima del nostro allenamento, che potrebbe essere anche una barretta energetica o un gel, e se l'allenamento è impegnativo anche integrare con liquidi e sali durante, se possiamo, se riusciamo. Quindi al rientro non avrò tutta quella fame, ma potrò fare un pasto di recupero bilanciato, che potrà essere uno spuntino, un frullato di frutta, dello yogurt, oppure la mia cena, per esempio. Questo è più corretto. Perfetto. Grazie Fabio. Allora buon anno, e buon anno anche a Francesca De Riu. Buon anno a tutti. Buon anno a tutti anche da parte mia, e che sia l'anno della sfida migliore con noi stessi. E anche per oggi è tutto, vi ricordiamo il nostro indirizzo mail per i vostri commenti e le vostre domande, personalbest@radio24.it. Buon anno. Buon anno a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.